la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Roger, sì. Da dove viene questo nome? Mi messo in italiani, però mia mamma mi ha voluto chiamare così in francese, Roger. Roger. E allora, come ti posso presentare? Nel senso, tu adesso come ti presenti? Come un attore? Come un autore? Ma io ancora non ci credo, però mi so accreditato, c'è scritto attore. Sono stipendiato come attore, organizzatore, promotore del nostro progetto. Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino. Questa che sentirete è una storia davvero bellissima. È la prima volta della rinascita di un uomo. Questa è la storia di Roger Mazzaro, un ex detenuto del carcere di Opera. Nato e cresciuto in una famiglia benestante del centro di Milano, Roger finisce per delinquere quasi senza capirne il senso. Cresciuto tra riformatori e carceri, a un certo punto incontra il teatro. Fuori, uomo libero e da anni attore, perché questa storia racconta di come il teatro e la bellezza salvino davvero la vita. Allora vi lascio all'ascolto di questo incontro bellissimo. Vengo da una famiglia per benissimo, abitavo in Corso Buenos Aires, mio padre era controllore traffico aereo, ex pilota, famiglia per bene, mio fratello attualmente è avvocato. E per far capire ai genitori che magari anche un taglio, adesso non voglio dare la colpa ai miei genitori di tutte le cavolate che ho fatto io, però anche un taglio di capelli obbligato, mia mamma era parrucchiera. Da casa mia passavano modelli e modelle a fare tagli strepitosi. A me toccava la frangetta di lato con la riga. E io sta cosa la subivo. Io andavo dallo psicologo magari perché bigiavo a scuola. Chi è che non aveva mai bigiato una volta o due? E io queste cose l'ho accusato un po'. E anche per far capire i falsi miti, perché io sono sempre stato attratto dal bullo, dal delinquentello. E poi se i ragazzi da adesso che seguono la... quello che al tempo lo seguivo io, non si rendono conto che poi si ritrovano una vita bruciata. E adesso... Ma perché tu, cioè, cosa è successo, se hai voglia di raccontare? No, io sono scappato di casa a 16 anni, senza sapere cosa volesse dire vivere in strada. Io fino a pochi giorni prima facevo il carichetto, andavo alle superiori, facevo dotto tecnico, mi rovescio da solo in mezzo alla strada e comincio a frequentare ovviamente dei posti che non conoscevo e sono stato un po' coinvolto. Ho cominciato a delinquere, c'è stato il primo arresto da mio renne a Bologna, però è durato poco, poi sono stato trasferito ai domiciliari a Milano, poi l'anno dopo ho cambiato scuola, sempre verso la fine dell'anno sono scappato ancora restando a Milano, mi hanno arrestato ancora, a 17 anni, poi una volta fatti 18 anni in una comunità per minorenni, che anziché scontare in carcere avevi una messa in prova, si chiamava, e fatti 18 anni basta, sono stato libero di fare i miei malcomodi e ho cominciato a delinquere, a fare dentro e fuori dal carcere, credendoci proprio con tutto me stesso. La mia vita era quella. Nella tua strada, diciamo. Sì, io ci credevo. Sì, era proprio. Per me entrare in carcere era tornare a casa, trovare gli amici, rilassarmi un po', così almeno non dovevo andare in giro a sbattermi, a fare la vitaccia. E fin quando ho conosciuto Opera Liquida, il teatro. Mi ha svoltato in una maniera impressionante. Cioè, cosa è successo? Cioè, ce lo racconti? Sì. E mi ricordo, in sezione, nei carceri, nella casa di reclusione, quando c'è un corso, una nuova iniziativa, un nuovo progetto, vengono affisse delle locandine. E, non so, c'era questo corso di teatro, chi vuole partecipare? E casualmente cascava nei giorni della palestra. Lì potevi andare, mi sembra, due volte a settimana. Sta a vedere, perdo la palestra per venire a teatro. Allora i miei compagni mi fanno una domandina loro, un giorno mi chiamo Mazzaro, teatro? Ma vanno, dai, vieni che ci divertiamo. Arrivo giù, ed è stata un po' comica la cosa. Io timidissimo, io proprio fino a ancora adesso. Prima di spiccicare per prima una parola dovevano farsi avanti prima tutti gli altri. Mi ricordo ancora, eravamo lì a teatro, e il primo giorno ci chiedono se qualcuno sapeva qualcosa a memoria, qualsiasi cosa, giusto per imparare a guadagnare il proscenio. Nessuno parlava, non so da dove è venuto fuori sto coraggio. Io casualmente so quasi tutto il primo canto dell'Inferno a memoria, proprio perché ai domiciliari mi ero messo lì, mi ero impuntato. Allora salto su e dico, io saprei una cosuccia e recito. Al tempo ero fissato un po' con la palestra, perciò lo vedevo sto scimmione che recitava l'Inferno di Dante preciso, sono rimasti tutti un po' così. E cioè, mi ha gratificato un po' sta cosa, ho detto, caspita, so fare qualcosa. E abbiamo iniziato a fare laboratorio, io non sapevo che ci fosse in programma uno spettacolo. A metà corso salta fuori e fa, ma quando andrete in scena? Come andremo in scena? Vabbè, secondo te perché lo stiamo facendo? Mi è montato il terrore, oddio, come in scena davanti a tutti, no? Però l'adrenalina che ho provato quel giorno, dietro il telone, il sipario, ad aspettare e sentire tutte le voci dietro, io quell'adrenalina lì la cercavo nei reati, nella vita che facevo, però era un'emozione sporca, perché comunque il rischio era... Questa invece è un'adrenalina mille volte più forte, che portava solo del bene. Da lì basta, da lì è stato bellissimo. Ogni volta provo quell'emozione lì, quando ho debuttato i frigoriferi milanesi, ogni volta è stupendo, a lui boh. Mentre debuttavi eri ancora in carcere, poi cosa è successo? Cioè c'è stata, cioè, quanto è duro, perché eri in carcere l'ultima volta che... L'ultima volta, quella precisa volta lì nel 2008, era un furto, un furto, che però cascò in rapina per via di un cacciavite che avevo in tasca, e mi diedero 1 anno e 8, poi è arrivato qualche altro definitivo vecchio, ho fatto quasi 2 anni e qualcosa. Una volta uscito ho continuato a collaborare così, lavoravo in borsa lavoro presso un negozio e collaboravo con un'opera liquida, così seguivo i progetti, finché vincendo questo bando abbiamo avuto modo di assumere me e altre 2 persone. Tuttora abbiamo in borsa lavoro 2 ragazzi ex reclusi che erano del mio gruppo, che sono usciti in misura alternativa e lavorano con noi. E gente che usava i permessi premio dal carcere per venire a fargli stare all'occhio con noi. Cioè il teatro ha coinvolto tantissima gente, speriamo di riuscire a fissare anche per loro un progetto lavorativo. E quindi tu, quando sei andata a vedere i tuoi amici dentro in carcere che recitavano, hai capito quello che stavano provando? Perché sì, era quello sì, che infatti li tranquillizzavo, dicevo, ragazzi, avete paura e ne avrete ancora di più fra 10 minuti, però andate avanti perché dopo è bellissimo, infatti dopo erano contentissimi. E li vedrò giovedì, li rivedrò. Ma non c'è qualcosa che ha a che fare con forse adesso il non essere stati ascoltati abbastanza magari nella vita, cioè perché o il non aver avuto a che fare con la bellezza veramente, perché il teatro un po' è quello, essere ascoltati e parlare di cose bellissime, no? Sì, ma soprattutto mi ha aiutato tantissimo scrivere la biografia, anche se magari non andrà mai editata da nessuno, non verrà mai pubblicata, però solo il fatto di mettermi lì, fermarmi e scrivere tutto quello che ho fatto, cioè mi ha fatto rendere conto di cosa ho fatto. Cioè, ho messo nero su bianco un passato che non è stato rosa e fiori, e man mano che scrivo dicevo, cavolo, ma che cosa ho combinato con la lucidità di farlo. E quello mi ha... E in più il teatro sì, ti mette a nudo. La prima volta. Certe volte ho avuto un forte mal di denti, come Tolstoj. Tolstoj pensava che non bisognava curarsi e che il dolore fosse necessario. Oggi questa antica idea è stata espugnata, non del tutto. Sotto sotto ci si sente in colpa a non lasciare che il dolore faccia il suo corso. Sopravvive nelle teorie sulla necessità che la pena carceraria sia effettiva. Se no, che cavolo di pena è? Tornando al ginocchio non posso più correre e saltare, ma camminare sì, e ci do dentro. Stamattina ho fatto 123 volte avanti e indietro nel cortile, coprendo una distanza di 4 km e 800 metri circa, comprese 245 virate. E dal modo di virare un occhio addestrato può farsi un'impressione esatta di ciascun detenuto. Si potrebbe reclutare un esercito dal modo di virare, come Gedeone contro i Madianiti dal modo di bere. Quasi nessuno arriva fino al muro. Porta male, dicono. Come chiudersi la cella da soli o farsi gli auguri. È tutto. Questo dunque raccontava Adriano Sofri quando era in carcere a San Vittore, e questa è un po' la storia che potrebbe confermare qualsiasi detenuto. Ed è infatti questa la storia di Roger Mazzaro, milanese di buona famiglia, cresciuto in fretta tra sbagli e difficoltà. Sbagli che lo porteranno a 18 anni a cominciare a varcare la soglia del penitenziario. per una vita destinata a continuare così. Ma all'improvviso, nella vita di Roger arriva il teatro. Ci occupiamo di prevenzione più che altro, si chiama Stai all'occhio all'interno di Opera Liquida. Andiamo nelle scuole a far capire ai ragazzini che stanno facendo quello che facevo io ai tempi. Eccoci. Non ne vale la pena. Partiamo dal festival, no? Si chiama Teatro Carcere, prova a sollevarti dal suolo, ci racconti come nasce questo progetto. E questo progetto, ora, siamo riusciti, allora intanto la Casa di Reclusione di Opera ha un teatro, a tutti gli effetti teatro, proprio una sala da 350 posti, con tanto di quintatura, sarebbe stato sprecato tenerlo solo per le bisogni per i detenuti. Allora, vincendo un bando Caripo, siamo riusciti, e grazie anche all'appoggio della direzione del carcere, siamo riusciti a renderlo aperto al pubblico civile. Quindi questo festival sarà misto tra pubblico detenuto e pubblico civile. È iniziato il 13-11 con proprio uno spettacolo dei reclusi, degli attori reclusi attualmente, che è una rimessa in scena di quello che abbiamo fatto noi quando ero recluso anch'io. Si chiama, si intitola Anime Cosmetiche ed è stato bellissimo. Poi entrare da esterno, col cartellino da esterno, vedere i miei compagni che hanno messo in scena quello che avevo messo io, capire le loro emozioni è stato stupendo. Perché di cosa parla questo spettacolo? E questo Anime Cosmetiche è praticamente un po' una metafora, perché la nostra regista Ivana Trettel ogni anno portava un tema che la assillava un po'. Quell'anno c'era la crisi. Infatti noi ridendo diciamo che l'ha un po' gufata della crisi perché l'ha preceduta. E praticamente la popolazione veniva costretta in un centro commerciale 24 ore su 24 obbligata a comprare, però c'erano le botteghe più assurde, lo scambiatore di paure, tu portavi una paura grave tua e lui te ne dava una più lieve, lo smaritore di oggetti seminuovi, non so, vuoi cambiare il cellulare però non si rompe, lo smariscono loro per te, così lo psicologo a gettoni. Tutte queste botteghe un po' particolari. Ma i miei sogni li ho presi è quello... Sarà l'11 dicembre, sarà tratto dalla mia autobiografia, che è nata un po' così per caso, perché durante le pause di teatro, dal 2008 al 2010, si parlava così, c'era la pausa sigaretta. Allora era l'unico momento con i registi, con gli altri coordinatori di parlare. Io raccontavo così i miei aneddoti, le cose della mia vita che per me sono sempre state normali. Mi è stato proposto di metterlo giù per iscritto. Avendo molto tempo a disposizione in carcere, mi sono messo a produrre blocchi su blocchi su blocchi, e poi fuori ho avuto un editing da parte di Elena Merini, una scrittrice che ormai è al quarto romanzo, e adesso grazie a Tina, una signora stupenda che mi sta battendo tutto in formato elettronico, perché io con la tastiera sono un po' lentino. E forse riuscirò a finirlo finalmente, a mettere la parola fine, a cercare un editore, qualcuno. Bellissimo dormire la notte e non aver paura che il campanello che suona, che ti vengono a prendere. Ancora c'è un po' l'ansia, perché purtroppo con i precedenti che ho, oltre a limitarti le opportunità lavorative, perché io passo colloqui, ho passato colloqui alla Gissander, alla Brook Brothers, posti importantissimi, passavo tutte le selezioni, alla fine mi stringevano la mano, complimenti, ti abbiamo scelto. A proposito, ci devi portare la carta d'identità, il codice fiscale e il casellario giudiziario. Questi precedenti saltava. E da quel punto di vista viene penalizzato. Però viene anche penalizzato dai rapporti sociali, perché chi mi conosce non interessa di quello che ho fatto. Molte volte addirittura quando vengono a sapere dopo quello che ho fatto, dopo avermi conosciuto, dicono vabbè, non l'avrei mai detto, ma non c'è problema. Però non sempre così. Molte volte conoscono prima il tuo curriculum, poi te, ma non ti vogliono neanche conoscere. Non ti danno mai una possibilità. No, giustamente. Ma perché giustamente? Ma io non lo farei, giustamente, perché io mi metto nei loro panni. Io, non so, gente come i miei genitori, che prendo loro come esempio, già vedendo pregiudicato, non vorrebbero neanche stringergli la mano. Cosa sbagliata, perché non vuol dire, tutti possono sbagliare. Io magari ho sbagliato un po' troppo tempo. Però ho capito che non ne vale la pena. E quello che vogliamo far capire adesso ai ragazzi, non ne vale la pena. Ma adesso questo progetto lo state portando anche nei carceri minorili, quindi state puntando a recuperare i ragazzi. C'è un progetto, adesso un bando, che dovremmo formare noi gli detenuti, che poi del Beccaria, i quali a loro volta poi andranno nelle scuole elementari. se dovesse passare sarebbe una bellissima cosa. Per adesso andiamo nelle scuole, puntiamo alle prime superiori di solito, perché si spera che prima siano ancora recuperabili. Senti, io avevo scritto se mi raccontavi il primo giorno da uomo libero, perché pensavo, mi sono immaginata nel mio immaginario che tu avessi avuto una pena lunga e a un certo punto uscivi, quindi questa cosa romantica del... E invece no, di solito non è così, non è così. Ne ho fatte tante, la più lunga è stata sui 3 anni qualcosa. Cioè, dopo un po' dico la verità, è brutto a dirsi, però era normale. Sì, l'ansia la sera prima che sai di uscire, ok, boh, poi basta, una volta varcato il cancello tornava tutto normale, non c'era più. Però la prima volta veramente che sono uscito è stato nel 2010 da opera, con tutto il riformattamento del teatro. Io ero veramente uscito, mi sentivo proprio, camminavo tanto così da terra. Sentivi che eri diverso, rinato. Sì. E ancora se penso a quell'emozione mi viene su tutto. Cioè proprio quella volta sono uscito penso 17-18 volte dal carcere, ma quella volta è stata proprio una presa di coscienza, bellissimo. Ma c'era qualcuno ad aspettarti fuori? No, nessuno. Da solo. Nessuno. Perché hai deciso di imparare a memoria il primo canto dell'inferno? Non lo so, un istinto, ho detto prima o poi mi servirà. E gli altri detenuti cosa ti dicevano? Tutti sono stati coinvolti, infatti i ragazzi che adesso, quelli che sono usciti in misura alternativa o in permesso, che collaborano con noi, facevano tutti parte di quel gruppo. Siamo stati tutti coinvolti emotivamente, ma tanto, ed è stato bellissimo. Adesso finalmente è fuori, libero come una bandiera al vento. Agli amici di un tempo manderà certamente una cartolina, magari da Pisa, Torino o Milano. Adesso può vendere e comprare, farsi una donna se vuole, anche affittare una stanza con vista sul mare. Nessuno lo può condannare per quel poco di voglia rimasta di fare l'amore. La prima volta termina qua. Vi ringrazio per essere stati con noi. Un saluto in regia, un ringraziamento a Fabio Cantadori. Se volete potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Potete seguirci su Facebook o andando sulla pagina della Prima Volta all'interno del sito di Radio 24. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.